Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Inizia Radio Zanardi, 9:04 minuti, inizia come ben sapete con la redazione di Radio Bullet, che è già contattata e connessa con noi per il podcast quotidiano delle notizie dal mondo, per cui vi lascio in compagnia di Radio Bullet, vi do appuntamento a più tardi con Maurizio Casertano e il Pinzimonio, che ieri non è andato in onda, lo recuperiamo oggi. Buon ascolto, Radio Bullet. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Ci stavo io. La Bolivia svela una nuova unità antiterrorismo per combattere i gruppi stranieri. Il governo iraniano ammette per la prima volta che ci sono state vittime durante le proteste. Iraq preso il vice dell'ex leader dell'ISIS al-Baghdadi. E ancora Iraq, i cristiani cancellano le celebrazioni di Natale in solidarietà alle proteste. Investigatore dell'ONU, il mondo ha fallito nel compito di consegnare alla giustizia gli assassini del giornalista Khashoggi. Asia Foundation, la libertà di stampa in Afghanistan deve essere protetta e si dimette il premier della Finlandia. Filippine, tifone Kamuri, 200.000 sfollati. Esclusiva Associated Press, 629 ragazze pakistane vendute come spose in Cina. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dal Cile con un terremoto 6.0 che ha colpito il paese. Ieri invece il governo ad interim della Bolivia ha svelato una nuova forza di polizia antiterrorismo che si prefigge di smantellare gruppi stranieri che minacciano il travagliato paese sudamericano. Questo gruppo antiterrorismo ha la missione di smantellare tutte le cellule terroristiche che stanno minacciando la nostra patria, ha detto il ministro degli interni Arturo Murillo durante una cerimonia ufficiale per presentare una forza composta da 60 persone. Murillo ha rivisto i ranghi di truppe mascherate vestite di nero che compongono la nuova forza chiamata GAT con una cerimonia alla Paz. Il ministro ha affermato che lo Stato ha dovuto agire per liberare la Bolivia da questi narcoterroristi che si sono stabiliti nel paese negli ultimi 14 anni, un riferimento non a caso al mandato dell'ex presidente Evo Morales. Morales si è dimesso il 10 novembre nel pieno delle proteste per brogli delle elezioni del 20 ottobre. Colombia, un ingegnere che lavorava per la compagnia aerospaziale di difesa francese TEL è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella capitale colombiana Bogotà in un apparente omicidio mirato. Secondo la polizia, la vittima di 45 anni è stata uccisa lunedì sera mentre lasciava un ristorante con un collega francese nel raffinato quartiere settentrionale di Chapinero. Respingiamo l'ipotesi di una rapina. Secondo le prove che abbiamo, si tratta di un assassinio commesso da un sicario, ha detto ai giornalisti il maggiore Robert Menzies. Stati Uniti, la commissione intelligence della Camera ha approvato il rapporto sull'impeachment del presidente Trump. A favore hanno votato i democratici, che sono la maggioranza, contro tutti i repubblicani. Il documento di 300 pagine sarà usato come base dalla commissione giustizia della Camera per redigere gli articoli della messa in stato di accusa. È la quarta procedura di impeachment in 243 anni di storia americana. Il rapporto riguarda più di 8 settimane di indagini e interrogatori sull'Ucraina Gate, le pressioni che il presidente fece su Kiev perché indagasse sul suo rivale Joe Biden e suo figlio nella corsa alla Casa Bianca. Stai ascoltando Radio Bullets. Per la prima volta dopo 3 settimane dall'inizio delle manifestazioni in Iran per il rincaro della benzina, il governo ha riconosciuto che la polizia ha sparato e ucciso alcuni manifestanti. Non viene data una cifra. La TV specifica che sono stati presi di mira però i facinorosi, mentre dall'arresto di 2020 persone, molte delle quali già rilasciate. Amnesty International invece parla di almeno 208 morti accertati. Iraq, la polizia ha catturato Abu Khaldun, il numero 2 dell'ex leader dell'ISIS ucciso in Siria dagli americani qualche settimana fa. Abu Khaldun è stato preso a Kirkuk, dove aveva documenti falsi ed era considerato il principe della provincia di Saladin. E restiamo in Iraq perché non ci sarà Natale. La comunità cristiana irachena ha deciso di cancellare le celebrazioni in solidarietà con le proteste. Il capo della chiesa caldea, il patriarca Luis Sacco, ha detto che non ci sarà festa per rispetto alle persone uccise e ferite nelle proteste che ormai durano da più di 2 mesi. Sono 430 le vittime delle manifestazioni antigovernative e 20.000 i feriti. Il consolato iraniano a Najaf fintanto è stato dato di nuovo alle fiamme per la terza volta. La Turchia ha deciso di bloccare i piani della NATO per la difesa della Polonia e dei paesi baltici se gli alleati non riconosceranno le milizie curdo-siriane dello YPG come terroriste. Parole del presidente Erdogan prima di partire per il vertice NATO a Londra, mentre il presidente francese Macron poche ore dopo definirà il patto atlantico in piena morte cerebrale. La NATO dal canto suo definisce la Cina, così come la Russia, obiettivi. Sul nostro sito troverete il link dove si parla del contributo finanziario che ogni paese dà alla più forte alleanza militare al mondo. Secondo i dati della NATO, gli Stati Uniti spendono meno di quanto Trump ha detto, con il 3,42% del PIL per la difesa, mentre la Germania attualmente spende l'1,38% con un aumento dell'11% rispetto all'anno scorso. L'investigatore speciale delle Nazioni Unite ha detto ieri che il mondo ha fallito nel suo compito di consegnare alla giustizia gli assassini del giornalista saudito Jamal Khashoggi. Agnes Callamard, relatrice delle Nazioni Unite per le esecuzioni extragiudiziali, ha detto ai giornalisti a Bruxelles che l'Unione Europea e gli Stati Uniti devono fare di più in risposta all'uccisione di Khashoggi da parte di agenti sauditi al consolato saudita di Istanbul lo scorso anno. Callamard, che ha viaggiato a Bruxelles con la fidanzata di Khashoggi, Atis Cengiz, ha chiesto un'indagine penale internazionale, una proposta che il governo saudita ha già respinto. 11 sospetti sono stati processati per l'uccisione di Khashoggi, ma secondo quanto riferito, Callamard sta chiedendo indagini sul principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e altri funzionari. La CIA e altri governi occidentali hanno concluso che il principe ha ordinato l'uccisione del giornalista, ma i funzionari sauditi negano tali conclusioni. L'Unione Europea, nel primo anniversario della morte del giornalista, ha chiesto un'indagine credibile e trasparente. Il Ministero della Difesa israeliano ha emesso un ordine amministrativo per istituire un database di attivisti palestinesi arabi. Naftali Bennett, ministro provvisorio della difesa, ha definito l'ordine come una persecuzione economica volta a limitare gli attivisti all'accesso ai beni e alla gestione delle proprie finanze in quella che viene chiamata una vera e propria guerra al terrorismo. L'ordine è il primo del suo genere in Israele. Il documento sarà disponibile per altri paesi e completamente accessibile al pubblico. Includerà nomi di persone presumibilmente legate al movimento palestinese di Hamas e degli Hezbollah in Libano. Un altro nel mirino, il noto avvocato palestinese Muhammad Jamil Hersh, presidente dell'Organizzazione Araba per i Diritti Umani nel Regno Unito. E secondo un rapporto delle Nazioni Unite, la raccolta delle olive in Palestina è stata colpita al 50% da furti, atti di vandalismo e violenza, 47 episodi di violenza contro i palestinesi e i loro ulivi negli ultimi mesi, il 50% in più rispetto al 2018. Tunisia, 11 arresti di manifestanti durante scontri con la polizia. Le proteste erano scoppiate sabato dopo che un giovane si era dato fuoco nella regione di Sidi Bouzid. Proteste esplose il giorno dopo che Abdelaweb Ablani, 25 anni, si è dato fuoco nel centro della città per protestare contro la povertà e le cattive condizioni di vita. In seguito è morto in ospedale. L'incidente ha fatto eco all'autoimmolazione del 2010 di Mohamed Bouazizi, la cui morte ha innescato la primavera araba. Khaled Ayouni, un portavoce del Ministero degli Interni, ha riferito all'agenzia stampa AFP che i residenti hanno bloccato le strade e attaccato la polizia sabato e domenica sera. Stai ascoltando Radio Bullet. Un divieto fatto all'esportazione di armi che aveva impedito al produttore tedesco di armi Rheinmetall di esportare veicoli corazzati in Arabia Saudita è stato annullato da un tribunale tedesco. Il tribunale si è pronunciato contro le autorità che ha dichiarato di non aver seguito le procedure di revoca della licenza che era già stata rilasciata. La licenza aveva permesso la vendita di 110 veicoli in Arabia Saudita, 10 dei quali erano già stati consegnati al Regno in ottobre. Crisi di governo in Finlandia. Il premier ha perso l'appoggio del principale alleato, il partito di centro, uno dei 5 partiti al governo, e il leader socialdemocratico e primo ministro Antti Rinne si è dimesso. Da 2 settimane i lavoratori del servizio postale di proprietà dello Stato sono in sciopero e le pesanti critiche contro Rinne hanno portato a questo punto. Il governo deciderà sul suo nuovo primo ministro settimana prossima. La Finlandia fino al 31 dicembre prossimo ha la presidenza di turno dell'Unione Europea. Afghanistan. Un rapporto dell'Asia Foundation sostiene che la libertà di stampa debba essere protetta. Il rapporto, intitolato Accesso alle informazioni e media, ha riportato che l'uso della radio è diminuito. Indica che il 65,9% degli intervistati nel 2019 guarda la televisione come fonte di notizie e informazioni, un aumento dell'11,2% dal 2013. L'86,7% degli intervistati identificato la famiglia e gli amici come fonte di notizie e informazioni, il 14,4% degli afghani utilizza internet come fonte di informazione e notizie, circa il 17,6% della popolazione afghana utilizza internet, il che rappresenta un aumento di 16 volte rispetto all'1,1% che erano gli utenti di internet nel 2006. Tra il 29,7% degli intervistati che hanno personalmente accesso a internet, le attività più comuni includono Facebook e altri social media, 70,6%, e tenere il passo con le notizie per il 41,1%. E ora andiamo in Pakistan. Un elenco governativo mostra che 629 ragazze pakistane di tutto il paese sono state vendute come spose in Cina, la maggior parte tra il 2018 e l'inizio del 2019. L'elenco, ottenuto in esclusiva dalla Associated Press, è stato compilato da investigatori pakistani determinati a spezzare le reti di trafficanti. Negli ultimi mesi però la loro spinta aggressiva si è fermata e i funzionari che partecipano alle indagini affermano che ciò è dovuto alla pressione del governo pakistano, che teme di rovinare i legami con la Cina. Non si sa quante altre donne e ragazze siano state trafficate da quando la lista è stata messa insieme, ma un funzionario pakistano ha detto che il commercio redditizio continua. Ha parlato con l'AP in un'intervista condotta a centinaia di chilometri dal suo posto di lavoro per proteggere la sua identità. I broker cinesi e pakistani guadagnano dai 4 ai 10 milioni di rupie, tra i 25.000 e 65.000 dollari dallo sposo, ma solo circa 200.000 rupie, 1.500 dollari, vengono dati alla famiglia, ha detto. Il funzionario, con anni di esperienza nello studio della tratta di esseri umani in Pakistan, ha affermato che molte delle donne che hanno parlato con gli investigatori hanno riferito di trattamenti come la fertilità forzata, abusi fisici e sessuali e in alcuni casi prostituzione forzata, sebbene non sia emersa alcuna prova da parte delle autorità cinesi. Molte ragazze provengono dalla comunità cristiana pakistana molto povera. Corea del Nord. Kim Jong-un ha inaugurato Samyeon, la città ideale, uno dei maggiori progetti di sviluppo urbanistico del paese, ritenuto il simbolo della moderna civiltà. Ospiterà 4.000 famiglie, c'è una pista da sci e uno stadio. Il progetto è nato 2 anni fa. Filippine. Sono centinaia di migliaia le persone sfollate, 217.000 per la precisione, le persone evacuate per l'arrivo del tifone Kammuri, che ha raggiunto l'isola di Luzon, la principale nazione dell'arcipelago, il 20° tifone che colpisce il paese in questa stagione, 17 vittime. L'emergenza dovrebbe durare fino a domani, mentre il tifone si sta già spostando verso sud. E concludiamo con un numero disturbante che ci fornisce l'UNICEF. Sono 59 milioni minori che si trovano in zone di guerra o di crisi. un minore su 4. Per il 2020 l'Agenzia delle Nazioni Unite ha deciso di raccogliere più fondi che mai per portare aiuti l'anno prossimo con 4,2 miliardi di dollari. La situazione più critica al momento sono i rifugiati siriani e i paesi che li ospitano come Egitto, Giordania, Libano, Iraq e Turchia. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Buon proseguimento di ascolto e naturalmente di giornata. Samba lança, a todo mundo no balanço, samba lançou, o samba lança, samba lançou, samba lança. Esse é o samba lança, foi você que me ensinou, samba lança, todo mundo no balanço, samba lança, samba lançou, samba lança. Esse é o samba lança, foi você que me ensinou, samba lança, todo mundo no balanço, samba lança, samba lançou, samba lança. Esse é o samba lança, foi você que me ensinou, samba lança, com todo mundo no balanço, o samba lança, balançou, samba lança.

Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Segna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. Torniamo in diretta, puntuali per la rassegna stampa con Piero Di Domenico. Iniziamo il nostro sguardo all'interno dei quotidiani, oltre che alle notizie principali. Iniziamo da un argomento che abbiamo visto già dalla giornata precedente e non solo, anche perché non ci fermiamo come i quotidiani a una visione unica su Greta, che sembra sia diventata l'unico motivo per cui puoi collegarci a tutto ciò che è ecologia e attenzione per l'ambiente. In realtà è da ben prima che si seguono queste situazioni. Poi onore al merito ai giovani che stanno portando avanti con grande entusiasmo e concretezza tutte queste situazioni in pericolo per il mantenimento di una realtà che adesso sta sempre più vivendo un momento di grave squilibrio. Però, come vi dicevo, più attenti alla vita, ai percorsi, ai viaggi della giovane svedese piuttosto che a quello che in realtà ci troviamo di fronte tutti i giorni. Intanto andiamo a pagina 23 del Corriere della Sera, seguirà poi La Stampa per tutto quello che è il viaggio a Lisbona, dove Greta approda alla conferenza sul clima dopo 20 giorni di mare. Quindi il dettaglio, la navigazione, cosa mangia, come si veste, come si muove, tutto quello che per quanto riguarda il clima e quello che deve essere messo sotto la lente di ingrandimento va poi portato in maniera travisata ai contenuti di questa giovane indipendente e intraprendente, certo attenta anzi di più alle condizioni climatiche del mondo. Arrivata a Lisbona via mare, sarà al summit sul clima. Noi dalla parte giusta, il dossier sul CO2 rallenta la crescita di emissioni. Intanto una piccola folla di fan in deliquio aspetta sul molo, la barca a vela sfila piano sulle acque calme del Duero in una giornata di sole caldo che coronava un viaggio durato 20 giorni tra le onde dell'oceano dall'America del Portogallo. Alle 12:45 la vagabonda, è il nome della barca, è entrato nel porto di Lisbona. Greta è finalmente apparsa, il solito faccino triste e infagottato nella tuta da velista. Un Cristoforo Colombo, aggiunge a pagina 23 il Corriere della Sera, che invece di andare a cercare una nuova terra cerca di salvare la nostra vecchia terra. Così si è presentata ieri al suo pubblico. Tanti giovani di diversi politici locali accorsi per una photo opportunity. Questo termine mi piace molto, photo opportunity, con la sedicenne più carismatica di sempre. Vado al COP25 di martedì e continuerò a combattere lì per garantire che la voce delle future generazioni sia ascoltata, in particolare quelle delle popolazioni del sud. Allo stesso modo, la giornata ripresa dalla Stampa a pagina 16, Greta approda sulla conferenza Il clima dopo 20 giorni in mare e una fotografia gigantesca. Ma quello che vediamo poi quotidianamente, come appunto vi ho riportato all'inizio, dando certo importanza all'attivismo, ma è anche quello che sta succedendo e che vediamo non tanto distante da casa nostra in questo caso, per far capire anche a livello più esteso quello che vi è. Ieri vi ho parlato dell'India, dove praticamente nel Pacifico galleggiano schiume e schiume di scorie derivate dalle industrie inquinanti messe in maniera indiscriminata vicino alle coste, e giovani che stanno facendo il bagno appunto in mezzo a questa situazione che è indefinibile. Le immagini, tornando a pagina 21 del Corriere della Sera, ci parlano invece della capitale, per cui rientriamo più vicino a noi, perché non esiste che è lontano, tanto sono là, tanto capita là. Quello che vediamo anche da noi è bastato un acquazzone a sommergere la città. Si parla del maltempo, si parla di una pioggia torrenziale, certo è, come diciamo spesso, manca manutenzione, manca attenzione, è sempre piovuto, sta piovendo, vabbè, oggi è una giornata particolare, nei giorni passati in maniera estremamente intensa, e beh, è bastato a sommergere la città. Fiumi nella metro, mezzi fermi, gli annunci di raggi e l'emergenza che resta. Inquietanti le immagini a proposito di scorie galleggianti, questi rifiuti che stanno galleggiando nell'acqua, quando va bene racchiusi nei sacchetti, ma quando va bene comunque. Le dichiarazioni del sindaco Virginia Raggi: il vento sta cambiando, signori, gorgheggiava Virginia Raggi accingendosi a salire in Campidoglio al posto dell'assai vituperato Ignazio Marino, e al punto di apnea in cui siamo dopo 3 anni e mezzo a mollo dentro un'acqua alta quasi veneziana. Questa è una situazione però che in maniera sisifea si rifalla anche al comune con altri, ad esempio Alemanno, per dire un nome a caso, e poi certamente a cascata le realtà si riportano indietro, anzi avanti. Dopo 3 anni e mezzo a molo dentro un'acqua quasi veneziana, noi romani speriamo che non sia più una metafora quella, ma una vera promessa meteorologica. Ci aggrappiamo alle previsioni del tempo, cara sindaca, questo ci resta tra tombini tappati e calditoie intasate. Il clima non è buono, questo magari ci vuol poco, però è anche il titolo del manifesto, che dà una sorta di coperta, di sudario a quanto già accennato. Il manifesto che va un po' ad ascoltare il sud del mondo, perché effettivamente in questo vertice appunto del COP25, in attesa anche della manifestazione del 6 dicembre, venerdì, corteo dei movimenti, annuncia, ci ricorda il manifesto, in nome dell'equità i 47 paesi meno avanzati, fra i quali molti stati africani e alcuni stati del Pacifico, avanzano delle rivendicazioni più che sacrosante. Ad esempio, i 7,7 milioni di abitanti dello Zimbabwe, attualmente alla fame per una serie senza precedenti di shock climatici in rapida successione dell'Africa meridionale. Perché? Perché avanzano rivendicazioni di fronte a un caos che li colpisce più di tutti, anche se producono mediamente veramente un minimo di gas serra pro capite, e quindi più che sacrosanto appunto dare loro la voce. Intanto circa la metà dei paesi del mondo ha sviluppato un piano nazionale per i cambiamenti climatici, ci dice l'OMS, ma c'è sempre poi il lato scuro della medaglia: solo il 38% ha dei soldi, dei finanziamenti per tradurre in pratica queste strategie. Quindi altrimenti sono strategie che restano solo sulla carta. Al di là, insomma, del viaggio appunto di Greta, i giornali poi condiscono come dire questo approdo a Lisbona con alcune altre notizie, ad esempio la Repubblica che intervista la sottosegretaria alla transizione ecologica del governo francese, che si chiama Brune Poirson, che annuncia una legge in Francia antispreco. Basta abiti e imballaggi gettati nella spazzatura. Questo appunto è una novità, la legge anti gaspillage. Il peso delle lobby, dice la sottosegretaria, appunto, è molto forte. C'è un vero business attorno al trattamento, ad esempio, dei rifiuti di plastica, ma io continuerò a difendere appunto la nostra misura, che prevede appunto che abiti e imballaggi appunto non vengano, come dire, buttati più in maniera indifferenziata. Poi naturalmente ci sono anche delle immagini che ci riportano appunto questo argomento. Ha fatto il giro del web e non solo questo video pubblicato da un membro del WWF di questo orso polare con la scritta in nero enorme T34, ira degli animalisti. Perché naturalmente con una scritta così è difficile per quest'orso mimetizzarsi, quindi è come dire eccomi qua, sono qua, cioè sempre con la mano alzata. Ma è una bravata poi fino a un certo punto, perché appunto qualcuno gli ha messo questo spray, peraltro anche con un certo, come dire, con una certa avventatezza, perché insomma avvicinare un orso bianco con lo spray non è esattamente forse così indicato. Secondo i media russi la bravata però sarebbe legata alla rabbia locale, perché sempre più orsi bianchi si spingono nelle zone abitate a causa della penuria di cibo. Ma naturalmente il problema poi è perché non c'è più cibo, naturalmente non è certo l'orso bianco appunto che arriva peraltro appunto con questo nuovo look, il nuovo vestitino per evidenziarsi. La mancanza di cibo e anche la mancanza di territorio naturale con lo scioglimento dei ghiacci. Notizie intorno al mondo, perché appunto del mondo che noi stiamo parlando, per poi riavvicinarci nuovamente alla politica interna. Ma quello che tiene banco sulle prime pagine in maniera molto molto presente è questa fotografia che ritrae un incontro, l'incontro tra Trump e Macron, ed è duello sulla web tax al summit NATO. Il gelo tra il presidente francese e quello americano al vertice NATO, dai dazi alla NATO, Trump spara su Macron sentendosi ovviamente lui l'imperatore che vede sulle sue province la capacità di poter decidere tutto ciò che gli pare e piace. Sarà presente in questo incontro per la coppia Trump e Macron. Il presidente americano attacca Parigi, rea di aver insultato la NATO. Tensione al vertice sull'alleanza atlantica a Londra, anche sui dazi elite tra Stati Uniti e Francia. Pagina 12 e pagina 13 del Corriere della Sera, alla quale ci avviciniamo per avere dettagli più approfonditi su questo incontro, e troviamo la stangata dell'America sui dazi. Parigi punita verso l'aumento del 100% per rispondere alla web tax. Minacce all'Italia se farà lo stesso. La situazione per quanto riguarda i prodotti che vengono qui citati, ma non solo, vini, olio d'oliva, pasta, formaggi, salumi, biscotti, superalcolici, auto, aerei di linea e quant'altro. Beh, l'Unione Europea non è attrezzata per un mondo governato dalla legge del più forte, cioè la legge di Trump. Istituzioni spiazzate erano nate in un'epoca di dialogo, conferma l'articolo di Federico Fubini a fondo pagina, pagina 12 del Corriere della Sera. Le misure: il 18 ottobre sono entrate in vigore le tariffe americane che prevedono una tassa del 25% su vino, formaggi europei per gli aiuti di Stato contro il consorzio Airbus. Si tratta di 7,5 miliardi di dazi sulle importazioni in totale dall'Unione Europea. Trump spara su Macron, il presidente degli Stati Uniti attacca il leader francese e oggi incontra il premier Conte. I britannici hanno fatto di tutto per tenere basso questo vertice NATO con una campagna elettorale in corso. Meglio non correre rischi di distrazioni. Ma ma ci ha pensato come sempre Trump a scompigliare i piani, lanciare i fuochi d'artificio. Il presidente lo ha fatto ieri in apertura di mattinata parlando ai giornalisti nella residenza dell'ambasciatore americano a Londra. Attorno alla NATO c'è uno spirito favoloso, ha detto, fatta eccezione per questo paese. Quale? Non ha voluto nominarlo, ma ovviamente, ma subito dopo si è lanciato a testa bassa contro la Francia di Emmanuel Macron. Quindi chissà contro quale paese si stava scagliando, chissà cosa avrà voluto dire. Ma non solo con la Francia, le minacce già arrivano all'Italia per i prodotti che vengono messi così castigati, e chi più ne ha più ne metta, per una situazione economica già difficoltosa, per usare un eufemismo. A pagina 2 della Stampa, pronti i dazi per i prodotti europei, scintilla al vertice NATO, lite sui foreign fighter, altro contenuto importante, il presidente francese contro Erdogan. I curdi sono alleati, dice, a questo punto, capito, dopo aver fatto mille giravolte, più che altro aver mandato l'aviazione a bombardare o aver armato presenze assolutamente per creare più che altro una presenza di dominio territoriale, per avere le risorse per controllare le altre potenze vicine, Russia, Turchia e quant'altro, non certo per motivi di pace. Andrea Mattarella, il sottosegretario dell'editoria, Italia protagonista dei diritti digitali, servono nuovi equilibri fra autori, editori e piattaforme. Applicando la direttiva dell'Unione Europea, dice, difenderemo il copyright. Questo per quanto riguarda l'editoria. Nel mirino i paesi che chiedono tasse per chi da anni fa profitto sfuggendo alle fiscalità nazionali. Quindi automaticamente vediamo i giganti del web che, per quanto riguarda le tasse, hanno sempre fatto tutto ciò che gli pare e piace in nome della libertà della rete. Pensate un po' se un termine rete può essere sinonimo di libertà, ma questo è un parere personale, poi anche perché si potrebbe dire fare rete, ma è una cosa che è arrivata dopo, per cui ok, vediamo tutto ciò presente anche dal Corriere della Sera, come vi ho detto, oltre che dalla Stampa. Velocemente la pagina degli esteri più stretta, chiamiamola così, del Fatto Quotidiano, la raggiungo per vedere se parla di questo incontro per quanto riguarda gli esteri o se aggiunge altri contenuti, ma sinceramente più che le solite inchieste o gli approfondimenti per quanto riguarda le situazioni legate all'economia interna, non vedo altro per quanto riguarda Trump e Macron. Sì, il Manifesto apre proprio con un'immagine di Trump, definito l'alieno atlantico, perché naturalmente la questione NATO, la crisi del 70° anno della NATO, con queste scintille Macron-Trump, entrano anche nelle pagine del giornale, questo anniversario dell'Alleanza Atlantica, che vede però un Trump brandire minacce a destra e a manca, dazi al 100% alla Francia se metterà una digital tax alle multinazionali, statunitensi del web, minaccia all'Italia, e poi ne abbiamo anche per Argentina e Brasile, accusate di praticare svalutazioni massicce che danneggiano gli agricoltori americani. Insomma, è un Trump leonino che minaccia appunto tutto e tutti, ma che appunto in realtà, a proposito del web di cui si parlava, come dire, deve fare i conti anche, o meglio, dovrebbe guardare al di là, insomma, delle accuse che si aggiungono al gelo storico ormai con la Cina, dovrebbe guardare anche ad alcune novità che ad esempio oggi Repubblica ci riporta tra le brevi, e che però forse, insomma, così secondarie non sono. Leggo ad esempio: i fondatori di Google, Page e Brin, lasciano la holding che controlla il colosso del web, e la buttiamo lì. Oppure il papà di Twitter, Jack Dorsey, l'hipster di St. Louis con tatuaggio e barbetta, parto per 6 mesi per l'Africa, il continente definirà il futuro, specie la moneta virtuale Bitcoin. Quindi Dorsey punta sull'Africa, non so ancora dove e quando, ma mi ci trasferisco per almeno 6 mesi, e ha cinguettato questo piano per scatenando appunto il panico tra gli investitori. D'altronde anche Trump alcuni annunci appunto dal vertice li ha lanciati proprio via Twitter. Infatti leggo dalla Repubblica: la novità che fa tremare Argentina e Brasile è arrivata via Twitter. Trump ha accusato i due paesi latinoamericani proprio con un simpatico tweet, tanto per restare in tema. Per chiudere la pagina internazionale, segnalo anche delle novità in alcuni paesi europei. La Spagna, dove si insedia il Parlamento con la 14ª legislatura, ultimamente ce ne sono state molte in Spagna, con un ritmo piuttosto frenetico, con quella appunto con socialisti e Podemos. Si lavora anche al negoziato con gli indipendentisti di ERC, maggioranza rosso-viola, e con Vox, il partito di destra, che si prende una vice presidenza. Mentre invece a Malta ci sono molte fibrillazioni, e la missione dell'Unione Europea, che è appunto alla Valletta, ha chiesto al premier Muscat di lasciare l'incarico dopo il nono giorno di proteste appunto in piazza, con accuse gravissime di corruzione rivolte all'ex capo di gabinetto proprio dello stesso premier, quindi vicende di corruzione. Clima che d'altronde plumbeo, che si respira anche in Francia, leggo ad esempio: a Strasburgo profanato il cimitero ebraico, croci uncinate su 107 tombe del cimitero ebraico vicino a Strasburgo. Ma non siamo a rischio nazismo, ci mancherebbe, saranno stati degli squilibrati, i soliti ragazzi, no? Così vengono trattati di solito. Torniamo a parlare di Europa, torniamo a parlare anche di Italia in questo caso, e facciamo un ponte tra quella che è l'economia, Bruxelles, e la politica interna. Lo facciamo grazie a un approfondimento che arriva dalla nostra redazione giornalistica, al quale mi collego dal Fatto Quotidiano. Il colloquio: il premier al vertice della NATO parla Conte, sul MES otterremo un rinvio. A Londra il capo del governo smentisce attriti con Di Maio, assicura non firmerò in bianco. Molte volte sentiamo parlare di questo MES, ma non abbiamo mai approfondito, oppure non abbiamo mai parlato. Spesso arrivano notizie semplicemente con una sigla, spesso arriva un acronimo, ma entrare nell'approfondimento... Avete fatto caso come nell'economia e nella finanza i termini siano sempre così difficili, scuri, addetti ai lavori e quant'altro? Chissà com'è. Sul MES lavoro per il rinvio, con Di Maio mi sono chiarito. Giuseppe Conte a Londra per il vertice NATO, il premier rivela dopo il caos di lunedì sul salva stati, Luigi è equivocato, non ce l'avevo con lui ma solo con Salvini. Così gli tende una mano, possiamo dire, la mano tesa di Conte a Di Maio sul salva stati, rinvio possibile. Il MES che cos'è? O fondo salva stati, come funziona, come verrà riformato, perché se ne discute così aspramente in Italia? Sono domande che abbiamo rivolto a Nicola Borzi di Valori.it, e allora sentiamo le sue parole. È un organismo che esiste fino dal 2010 ed è stato creato alla luce della grande crisi finanziaria che ha investito alcuni stati dell'Europa negli anni scorsi. Si chiamava fino a qualche anno fa EFSF, cioè Sistema di Risorse Finanziarie Europeo, ed è un organismo che è intervenuto in alcuni paesi, non soltanto la Grecia, ma anche la Spagna, l'Irlanda, Cipro, per fornire risorse quando la situazione dei debiti pubblici di quei paesi stava andando fuori controllo. È un modo anche per aggirare quelli che sono i regolamenti europei che impediscono di fatto il salvataggio diretto, di dare risorse dirette, gli aiuti agli stati? No. Anzi, è studiato proprio per questo motivo. Gli aiuti di Stato non valgono quando si parla di settore pubblico, perché nel settore pubblico tutto è statale. Il divieto di utilizzare aiuti di Stato riguarda le aziende private, quando la concessione di aiuti di Stato aiuterebbe alcune aziende a discapito di altre e quindi violerebbe la concorrenza. No, il MES, che in ambito europeo si chiama ESM, cioè Sistema Meccanismo di Stabilità Europeo, è fatto apposta per poter mettere nelle mani di un organismo che con

libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my boy. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, my friend. Take it easy, meu irmão de cor. Olha como o céu é azul. Olha como é feio que mais. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. E ritorniamo sulle pagine dei giornali con un monumento. Ne parla Massimo Giannini oggi dalla prima della Repubblica. È il grattacielo Unicredit, quello che svetta nello skyline della nuova Milano da bere, un inno alla modernità. Ma un inno alla modernità che è diventato un monumento al lavoro perduto, perché si parla appunto di questi 8.000 esuberi per Unicredit, 8.000 posti da tagliare, 500 filiali da chiudere. Il titolo del fondo di Giannini è "Vince il profitto nel paese disuguale", tanto per capirci. Anche dal Manifesto questo gioco di squadra di Unicredit, il piano dell'amministratore delegato Jean-Pierre Mustier. Amministratore delegato francese della seconda banca d'Italia e quinta in Europa, 8.000 esuberi. Beh, è facile fare dei piani poi di questo tipo. 6.000 miliardi di dividendi tagliando 6 miliardi di dividendi tagliando il costo del lavoro, perché l'istituto ha chiuso l'anno con 4,3 miliardi di utile, un po' pochino, e allora per arrivare a 6 bisogna usare le forbici. Tutti concentrati in Italia. Il conto in Italia, Germania e Austria, ma il conto più salato è proprio per l'Italia, con un'ottimizzazione, che il termine è una sorta di pannicello caldo che viene sempre usato quando si tratta appunto di propinare appunto i tagli. Allora nella pagina appunto legata alle risorse disumane, come le chiama oggi Repubblica, vedremo poi se continuerà a chiamarle anche così, visto che come ci dice il Manifesto, Repubblica passa agli Agnelli, il gruppo Gedi passa alla Exor un accordo di 102,4 milioni, quindi i figli di De Benedetti hanno resistito alle lusinghe del padre, appunto hanno ceduto il gruppo agli Agnelli, Agnelli Elkan, ma però per il momento leggiamo ancora le prime due pagine appunto della Repubblica. Unicredit paga il conto chi lavora, il no di Landini, dal credito all'industria, 400.000 impieghi a rischio. D'altronde che le banche, che per le banche ci sia un trend di questo tipo, lo si intuisce guardando questi dati: in 12 anni cancellati 74.000 posti, i servizi online hanno cambiato, anzi hanno stravolto la professione del bancario, ora servono consulenti. E allora c'è un'intervista di fianco a un operaio della ex Embraco di Riva di Chieri, in provincia di Torino, che è da un anno davanti a una fabbrica vuota. I nuovi proprietari avevano promesso di costruire droni, ma non è mai accaduto. Forse anche i ministri hanno creduto alle favole che hanno raccontato, ma avrebbero dovuto controllare che diventassero realtà. È un caso, un esempio, un operaio, come dire, simbolico, no? Come tanti a cui appunto queste proprietà, in questo caso una proprietà brasiliana che ha preso questo Embraco, motori per frigoriferi, con l'impegno di salvare produzione e lavoro, e invece non queste fabbriche appunto che rimangono malinconicamente vuote, come ci ricorda appunto questo operaio, e con lui naturalmente tanti operai come lui. Anche dalle pagine del resto del Carlino, il tema appunto del lavoro e delle difficoltà legate appunto di come peraltro le tecnologie appunto abbassino il lavoro, va poi di pari passo con invece altre favole, perché il Carlino oggi guarda la favola del Pollo Amadori, sempre più biologico, le nostre eccellenze, chiusi i festeggiamenti per i 50 anni di attività, meno prodotti classici, via libera a quelli cresciuti senza antibiotici, e quindi gongola appunto Amadori, ma di fianco, come dire, invece come contraltare, abbiamo tutte le storie appunto simboleggiate dall'intervista di Repubblica. Sì, riporta anche il Fatto Quotidiano il caso Unicredit. Dopo la cessione dei gioielli, Unicredit fa 8.000 esuberi, via 5.500 dipendenti solo in Italia. Il colosso guidato da Mustier chiuderà anche 450 filiali entro il 2023. Si diceva una volta al posto sicuro in banca, agli azionisti promessi 16 miliardi di dividendi, ma la forza lavoro è dimidata. La 26.650 in uscita dal 2007 sono quasi tutti prepensionamenti, ora si userà anche quota 100. Altre pillole di economia le prendiamo sempre dal Fatto Quotidiano e di lavoro. Rider riconsegna, la procura torinese apre un'indagine esecutiva, e ce n'è tanto da andare ad esplorare per quanto riguarda questa famosa gig o gig economy, che dir si voglia. Grazie rete anche per questo, che favorisce tutto ciò per i controlli e per l'algoritmo, che sicuramente è estremamente umano nel controllare anche il lavoro. A proposito di tutto questo, che ci mette in evidenza la situazione poi culturale, la situazione poi più attenta ai giovani e alla scuola, e non è certo colpa dei giovani, anzi tutt'altro, gli studenti leggono sempre peggio. Allarme al sud, l'Italia precipita nella classifica OCSE, male in scienze, meglio in matematica, il nodo delle famiglie, a pagina 10 per quanto riguarda il Corriere della Sera. Serve che i giovani stiano stimolati anche dall'ambiente, così si sviluppano le loro capacità. Tante parole ovviamente non mancano, come Francesco Avvisati, ricercatore OCSE: diventeranno adulti, incapaci di decidere sui vaccini e sul cambiamento climatico, bisogna capire cosa imparare dalle nostre scuole. Ecco, dalle nostre scuole che ancora funzionano bene, e magari prendere i buoni esempi. Gli studenti italiani fra i peggiori dell'OCSE, uno su quattro non comprende ciò che legge. I risultati della ricerca PISA sui quindicenni deboli in lettere, cresce il divario intanto nord e sud. Questo per quanto riguarda la scuola, legati al lavoro poi in proiezione futura. Prendiamo altre notizie che possiamo definire così di cronaca politica, anche perché la strumentalizzazione su questo caso è stata ottima e abbondante. È stato gettato il sasso, nascosta la mano, non più di tanto, anzi aumentano i cerchi nell'acqua, ma nell'acqua, come si sa, i cerchi prima o poi scompaiono. Sono scomparsi più prima del previsto, perché Bibbiano, il famoso parlaci di Bibbiano, è libero il sindaco, gli affidi dei bambini, tante polemiche, tanta strumentalizzazione, per poi ritrovarsi appunto con una pacca nell'acqua. La Cassazione, via anche l'obbligo di dimora, cioè assolto con formula piena l'inchiesta sul presunto sistema degli affidi illeciti. Caso Bibbiano, il sindaco torna libero. Quindi, per continuare restando sulle cronache piuttosto del pericolo, a pagina 20 di quello che abbiamo citato in precedenza anche con Piero Di Domenico, l'arsenale dei nazisti in Francia gestito dall'ex pentito di mafia. L'inchiesta sugli estremisti di destra aveva un falso lascia passare della polizia. Le ombre nere che hanno dato il nome all'operazione dell'antiterrorismo contro una rete di neonazisti intenzionate a fondare il Partito Nazionalsocialista del Lavoro Italiano cominciano a prendere corpo. Non sono più solo bellicosi proclami degli inquisiti a preoccupare gli investigatori, ma le armi che alcuni di loro avevano a disposizione. Ma è libertà di pensiero, no? Così la giustificazione che spesso sentiamo. Oppure, ancor peggio, ma è un gesto di follia, è una follia assolutamente lucida. Altra cronaca, Rigopiano, prendiamo il Fatto Quotidiano: archiviate le accuse per i 22 indagati, tra cui D'Alfonso e Chiodi. I familiari delle vittime, così dichiarano, ora daranno la colpa a chi era in vacanza in hotel. Ci manca solo questa, aggiungo, anche per il caso Rigopiano, ripreso dal Manifesto. Strage senza colpevoli, archiviati i 22 imputati. Il GIP di Pescara ha disposto l'archiviazione dei 22 imputati per la strage di Rigopiano dal 18 gennaio del 2017. 29 persone morirono morirono dentro l'albergo travolto da una valanga in attesa dei soccorsi. Il padre di una delle vittime dichiara: alla fine verrà fuori che colpa è di chi stava all'interno del locale. Mi sento preso in giro dalla giustizia. Chiudendo poi questa parte, questo giro per quanto riguarda la cronaca nazionale, non ci resta che parlare di cronaca politica e politica interna, che è presentissima sulle prime pagine anche in maniera eterogenea e disordinata, non solo da Repubblica con le dichiarazioni di Del Rio, Di Maio ci ricatta, il PD non teme le elezioni, intervista al capogruppo Dem, scontro con leader 5 Stelle su MES e giustizia, Zingaretti così la prescrizione non va, il Premier media, non è vero che sto con il Partito Democratico, così dichiara Conte. Gualtieri tratta per modificare l'accordo con l'Unione Europea. Ma parlando di lavoro, dopo le notizie principali di cui abbiamo appena lasciato la cronaca poc'anzi, a pagina 2, a pagina 3, la mia attenzione va sul paga il conto chi lavora, a proposito di Unicredit, titolo che è quanto mai purtroppo vero su Repubblica. Ma non solo Unicredit, anche tante altre realtà e aziende. L'operaio, io da un anno davanti alla fabbrica vuota che avrei dovuto salvare. Prendo anche La Stampa, perché invece trova un peana a proposito del lavoro, e lo troviamo già dalle prime pagine, esaltando gli operai italiani. Ma in che modo? Che bravi gli operai italiani! E la Candy abbandona Pechino. I nuovi proprietari cinesi riportano in Brianza la produzione di lavatrici e premiano i lavoratori. Bisogna vedere anche le condizioni di lavoro, aggiungo, visto che La Stampa più che altro, pur essendo un quotidiano così orientato a una situazione, chiamiamola così, di centro, è più vicino all'aspetto padronale. Il rientro viene accompagnato da un investimento di 475 milioni. Imprese deluse dalla globalizzazione, estero addio, scocca l'ora del rimpatrio, sono già 120 le aziende che hanno riportato le loro attività in Italia. Prodotti di qualità possibili solo da noi, tornano per il Made in Italy, è inutile competere sui costi. Parla Guido Nassimbeni, il direttore della ricerca, che svela il fenomeno. L'estremo oriente non attrae più come qualche anno fa. C'è un problema su questa affermazione, che pare essere incoraggiante, è che le condizioni di lavoro si sono avvicinate alla situazione del Medio Oriente. È quello che purtroppo non viene evidenziato, se non che ogni tanto dal Manifesto e da pochi altri, è che la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori si è avvicinato in maniera peggiorativa a quella tristezza che è la condizione che abbiamo visto e denunciato più volte nei paesi dell'estremo oriente. Cominciamo, anzi, visto che abbiamo già aperto la pagina di politica interna, continuiamo a vedere altre notizie che vengono riportate dai principali quotidiani. Ad esempio prendiamo il Corriere della Sera, che tanto più ha già parlato di salva stati, ha già parlato di tante altre situazioni importanti, ma per quanto riguarda un'analisi viene messo il riflettore sul Movimento 5 Stelle. Dove vanno i 5 Stelle? In ordine sparso tra governisti e tentati dalla Lega, l'ombra della scissione di cui si parla già da tempo. In aula lo sguardo di Luigi Di Maio non incrocia mai quello di Giuseppe Conte, che fra l'altro gli tende la mano e che, come ho citato in precedenza a proposito di tante realtà legate all'economia e all'Europa, occhiate d'intesa, di nostalgia, che fanno il paio con i capannelli del giorno dopo Montecitorio, dove gruppuscoli di 5 Stelle dispersi confabulano con i deputati leghisti nella parte degli adescatori. Il più attivo Giorgetti, ha ragione Di Maio, per una volta che è coerente, perché gli date contro? Ma lo stesso Giorgetti che un attimo dopo scherza. 5 Stelle, ma no, sono 4, 3, 2, 1, gioco di parole che allude al progressivo prosciugarsi del movimento. Fonti leghiste assicurano che già 4 senatori hanno accettato il trasborno nella Lega e altri starebbero per cedere. È iniziato il mercanteggio, quindi, per dirla in parole povere. Questo Resto del Carlino che lascio con il Corriere della Sera e prendo anche il quotidiano Felsineo, che parla di giustizia, ultimatum PD ai 5 Stelle, ora basta, battaglia sulla prescrizione, altro argomento di contrasto importante e presente per quanto riguarda la politica interna. Se resta il muro grillino andremo avanti da soli, ma Bonafede tiene duro e dichiara: non si torna, niente passi indietro per questa realtà legate alla giustizia. Il Giornale invece, oltre che la l'attacco ai migranti, che come al solito è presente costantemente, non solo nelle prime pagine ma anche negli approfondimenti e come linea editoriale del quotidiano di Sallusti, a pagina 3 parla di questo incontro scontro, il PD finge di opporsi al Movimento 5 Stelle, via libera al processo infinito, respinta la richiesta di Forza Italia di cancellare lo stop alla prescrizione e Bonafede appoggia la proposta Dem. Scontro politico del nodo giustizia che è tanto caro al giornale, come già più volte abbiamo evidenziato, a modo suo ovviamente. Come tratta a pagina 2 tutto ciò? Anni nel limbo giudiziario, la riforma è uno scandalo, il docente ed esperto è stato inefficiente, dilatati i tempi invece di accorciarci, il carcere per chi evade è inutile. Sì, perché il carcere è solo per i poveracci. Allora, a tale proposito, vediamo come il giornale poi vede in un attacco scellerato e decisamente piratesco queste situazioni. Come follie di giudici e politici, migranti, stop ai rimpatri, sì al reddito, ai terroristi. I migranti respinti in Libia nel tentativo di raggiungere l'Italia hanno diritto a richiedere la protezione internazionale nel nostro paese e il risarcimento del danno subito. Lo dice una sentenza storica, secondo i giuristi esperti di immigrazione, della prima sezione del Tribunale Civile di Roma. Intanto la maggioranza giallorossa ha detto no a una proposta di Forza Italia che vorrebbe togliere il reddito di cittadinanza ai condannati per reati gravi. Quindi abbiamo già capito, no, come è orientato, ma non avevamo dubbi, la linea editoriale del giornale per quanto riguarda la giustizia. Vediamo se a proposito di migranti c'è qualcosa anche sul Manifesto, prima di procedere poi con l'approfondimento giornalistico che è imminente. Il legittimo respingere i migranti che chiedono asilo, il Tribunale Civile di Roma accoglie il ricorso presentato da 14 profughi europei, eritrei, scusate. I richiedenti difesi da Amnesty Agi avranno un visto d'ingresso e un risarcimento. Intanto siamo nel Mediterraneo, 121 profughi in attesa di un porto sicuro a bordo della Lancurdi e della Oman Viking, ma in Italia e a Malta non rispondono. Ecco, questa è la situazione per i pericolosi delinquenti sui barconi, che piuttosto di restare in una situazione inaccettabile si buttano tra i pulpi del mare. Come ben sappiamo, in aumento sempre le morti sul canale del Mediterraneo, che si sta trasformando sempre di più purtroppo in una gigantesca tomba. A proposito di migranti, grazie alla pressione delle assicurazioni il governo francese rinuncia ad inviare motovedette alla Libia. Intanto gli accordi di Malta sui ricollocamenti funzionano. Abbiamo parlato con Luca Masera dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Sentiamo le sue parole. Tutto è nato da un'iniziativa di diverse associazioni francesi che hanno coinvolto anche AGI, quindi l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione di cui sono membro, in quanto queste associazioni intendevano portare davanti a un giudice la scelta del governo di finanziare la Guardia Costiera Libica, in quanto ritenevano che fosse contrario ai doveri di rispetto dei diritti fondamentali che incombe su tutti i governi europei. È stata una vicenda giudiziaria complessa, nel senso che il primo grado è stato negativo alle associazioni, in quanto il Tribunale aveva riconosciuto un interesse politico in capo al governo che precludeva al Tribunale di decidere. Era poi iniziato il giudizio d'appello quando è intervenuta la decisione del governo. Quindi questo percorso giudiziario, che era ancora in fase di svolgimento, è stato comunque decisivo per spingere il governo francese a ritirare questo finanziamento, motivando espressamente sulla impossibilità di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo in Libia e quindi sulla necessità di non collaborare con organizzazioni che violano i diritti fondamentali. Quindi è un risultato molto importante anche al di là della Francia, perché come ben sanno gli ascoltatori, l'Italia da anni collabora con denaro, forniture di mezzi con la Guardia Costiera Libica, nonostante si sappia quali sono i crimini che la Guardia Costiera Libica commette nei campi di detenzione. Quindi potrebbe essere un segnale anche per altri paesi europei a interrompere queste forme di collaborazione. Sappiamo che invece l'Italia da poco ha rinnovato l'accordo con la Libia, quindi, come dire, l'esperienza francese può esserci d'aiuto per cambiare anche queste politiche? Forse sì, forse è troppo ottimistico sperare che questa decisione

roupas exóticas das Índias, Lisboa e Paris. A negra era obrigada a ser recebida como uma grande senhora da corte do rei Luís. Da corte do rei Luís. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Si conclude con la cronaca locale dal resto del Carlino. Autostrade, comuni all'incasso dopo la condanna della società. Le amministrazioni della provincia chiedono il conto sui canoni mai versate. Queste sono le notizie principali che arrivano dal Carlino come prima pagina. Poi gli approfondimenti vanno da pagina 2 a pagina 3, dove la sicurezza ovviamente tiene banco. Graffiti, braccio di ferro, siamo tornati sui punti puliti, scritte tag però sono già ricomparse. Al centro del grade la zona universitaria, in particolare Piazza Verdi, giusto di fronte al portico del teatro candidato alla tutela per l'UNESCO. Più luci, più sicurezza, magari più cultura. La lotta del procuratore Amato: non basta usare le telecamere, si può anche pensare all'obbligo del ripristino del bene oppure del pagamento della cifra necessaria per quanto riguarda la situazione di provvedimento visto dal Carlino in questo caso, che non va poi a parlare di tutto quello che invece è un disagio sociale in seguito alla condizione economica e di lavoro, quello messo in secondo piano di tante industrie bolognesi e della provincia in difficoltà. Quello che invece troviamo per quanto riguarda le cronache locali dalle pagine di Repubblica è per Inotram alle elezioni, denunciata dall'assessore Priolo per gli insulti, vogliono correre alle regionali e spostarle a destra. 2 agosto, il conto dell'EP 10 milioni per ricostruire. Adesso arrivano i conti per la ricostruzione e per quello che è stata questo 2 agosto a Bologna 1980. Per quanto riguarda il lavoro, e oltre alla trincea dei Notram su Repubblica, GD, bonus agli operai che non inquinano, l'azienda di Isabella Seragni lancia un'app per premiare i lavoratori green, premi e incentivi ai dipendenti che usano i mezzi pubblici, vanno a piedi o in carpooling. La società paga anche una quota dell'abbonamento al bus di distribuzione per quanto riguarda le borracce dell'acqua. Nella fabbrica dei disabili il lavoro è anche una terapia. Ricordo che ieri è stata la giornata della disabilità. In via del Carrozzaio, a sede uno dei 2 centri della fondazione OPIM, coinvolte 120 persone che accolgono le commesse dell'azienda e della provincia. Di questo ne abbiamo parlato anche la scorsa stagione con interviste a chi dirige la fondazione OPIM, attenzione per le disabilità e per il lavoro. Braccio di ferro sull'autonomia invece ci riporta la cronaca nazionale, anche dalla cronaca locale del Corriere di Bologna, lo troviamo già in prima pagina, quello che è l'approfondimento. Renzi a Martin da Conte: non entrerà nella legge di bilancio e anche la sinistra frena per quanto riguarda tutto ciò. Approfondimento per l'arte, la Pinacoteca promossa dal MIBACT, Lepore, ora il polo museale integrato. Andiamo avanti per concludere con i contenuti del Corriere della Sera per quanto riguarda la cronaca locale, e vediamo errori nel progetto del People Mover. Ma strano, guarda, non avremmo mai detto anche questa situazione legata al People Mover di cui tanto si parla, no? E intanto FD all'attacco, è fermo perché mancano i corridoi per i mezzi di soccorso, che direi che è una primaria necessità, sarebbe per il trasporto di passeggeri o anche di lavoratori. Quello che viene dalla provincia non lascia certo ben augurante: l'insulto razzista al calciatore, non sapevano scrivere bene il suo nome, l'hanno scritto così, negro, sul tabellino, via le indagini e sospetti su un utente anche del sito internet. Andiamo andiamo a vedere se troviamo notizie velocemente dalla cultura. E questa: storia da salvare, gli scavi dell'Alma Mater nell'Iraq devastato dalla guerra. Marchetti dice l'UNESCO non fa niente, e quindi da Aleppo al Mosul al San Filippo Neri. Questa sera l'incontro che mette l'attenzione sul grande patrimonio artistico del Medio Oriente e dell'Iraq. 10:29 minuti, puntuale terminata la nostra rassegna stampa. Tra pochissimo Rachele Copparoni con Fuji Comics, a seguire GR Iskra, e concluderemo la mattinata con il nostro Last Minute. Per oggi è veramente tutto dal vostro William Piana. Un buon ascolto e una buona giornata sulle frequenze di Radio Città Fujiko.